Riportando qui la mente per scappare via da là, questo volo mi spaventa perché non decollerà. Rivestito dai miei filtri, lascio fuori la realtà e tornare a compatirmi. C'è qualcosa che non va, portami via nel vento, le mie ali sono qua, vele grandi da gonfiare per volare via da qua, portami via nel vento, il mio posto è proprio là, dove un quadro un po' sfocato può anche esserne.